La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo lunedì post-elettorale, lunedì 20 di giugno, sono le 16.30, primi 41 secondi. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazio in diretta agli studi di Milano. Vi ricorda l'indirizzo versione di Oscar che ho radio24.it per proporre temi di trasmissione o per essere invitati e spiegare quello che vi capita se ha un interesse pubblico. Come sapete, molte trasmissioni nascono dalle vostre sollecitazioni, ma oggi è obbligato ancora anche in questa trasmissione, dopo che da ieri sera tutte le trasmissioni di approfondimento giornalistico sono sui vari aspetti ovviamente del ballottaggio amministrativo, anche oggi chiedervi un'opinione in diretta chiamandoci all'800 24 0024 per le opinioni con sms 349 238 6666. In particolare a me interessa un punto, perché come è inevitabile e giusto, il più dei commenti, degli approfondimenti, degli ospiti da ieri sera fino a quest'ora del pomeriggio sono stati dedicati a due aspetti salienti del voto. Da una parte la vittoria dei 5 Stelle a Torino, Roma ovviamente, e in 19 dei ballottaggi su 20 in cui i 5 Stelle erano nei comuni italiani. Sapete che i 5 Stelle si sono presentati con una selezione rigorosa dei posti dove andare scegliendo i loro candidati, e laddove diciamo non si fidavano dei militanti o dei candidati non hanno dato il simbolo, e questo è stato un aspetto molto commentato e ce ne sarà ancora molto da commentare. Il secondo inevitabilmente è quello che riguarda Renzi e il PD, e anche questo è inevitabile visto il Presidente del Consiglio, il suo piglio, il risultato che vedremo ancora molto analizzato, sentiremo che cosa poi uscirà dagli organi del partito, ma insomma si è aperto un problema come è evidente viste le dichiarazioni dei membri della sinistra del partito, della minoranza interna, ma anche di membri come Chiamparino, Esposito e tanti altri, no? Lo stesso Merola, il sindaco confermato, sia pur prendendo voti a Bologna, tutti che aprono un problema rispetto alla mancata tenuta del PD. E questi sono gli aspetti prevalenti. Ce n'è un altro, visto che siamo in un sistema tripolare, che riguarda il centrodestra. Quindi la mia domanda a voi ascoltatori, se siete interessati anche a questa questione, sia che voi lo abbiate votato, non lo abbiate votato oggi, ma lo votavate in passato, oppure anche se non l'avete mai votato, però mi interessa la vostra opinione su questo. Il centrodestra in realtà nel bilancio complessivo secondo voi esce come un pugile suonato battuto fuori dal ring, come per molti commenti sembra, oppure guardando meglio i risultati, adesso ve ne riepilogo qualcuno, in realtà è ancora più in partita di quanto non sembri, ma deve fare una scelta, e questa scelta tra la versione diciamo così moderata unita che c'era a Milano con Parisi, che ha perso di un punto e mezzo, due punti rispetto a Sala, e la versione invece più combattiva, la versione Sala Fratelli e la versione, scusatemi, Salvini Lega Fratelli d'Italia, ecco, tra questa scelta, se dovessimo metterla così, secondo voi qual è quella da perseguire dal vostro punto di vista? Come ovvio la scelta di Parisi era sì, stiamo tutti uniti, ma partiamo dal presupposto che non deve essere espressione diretta di nessuno dei vecchi partiti del centrodestra per avere chance, ed ha funzionato più di quanto non sembrasse, a dire la verità. Dall'altra parte, adesso nei dati che vi do, scopriamo che in numerosi capoluoghi però di provincia ha funzionato il centrodestra con la vecchia logica espressione diretta di uomini dei partiti, e sapete che da stanotte Salvini diciamo così ha levato il morso che aveva tenuto sulla bocca, che gli aveva fatto misurare le parole rispetto a Parisi, e ha detto no, la mia idea è basta moderati estranei ai partiti, io perseguo la mia strada, non cambio idea e quindi riprendo a battere sulle mie parole d'ordine, immigrazione, no euro e così via. Allora, di fronte a questi dilemmi, ma come è andato? È morto o è vivo? E che prospettive deve darsi per essere l'antagonista e non lasciare a 5 Stelle la parte dell'antagonista rispetto a Renzi? Diteci come la pensate voi. Qualche risultato, mentre è evidente quello che è successo a Milano a molti, non è evidente il riepilogo dei capoluoghi, secondo me. Noi abbiamo 25 comuni capoluogo in cui si votava, in cui 20 sono andati al ballottaggio. Allora, di questi 25, le giunte uscenti erano in 20 casi del centrosinistra, in 20 casi del centrosinistra. Al primo turno il centrosinistra ne ha prese 3 di quelle 20, al ballottaggio ne ha prese 5, quindi passa da 20 a 8, ne ha perse 12. Il centrodestra ne aveva 4 di quelle giunte, ne ha vinta una al primo turno e ne ha vinte 9 in ballottaggio. contro la sinistra, quindi passa da 4 a 10. Poi le tre in cui nei capoluoghi di comuni capoluogo in cui c'era in ballottaggio il 5 Stelle, come ho detto già prima, ha vinto il 5 Stelle nei comuni capoluoghi, poi ne ha vinte altre 16 per un totale 19 su 20 nei comuni mediograndi in cui era al ballottaggio. Ma sta di fatto che poi ci sono alcune liste civiche, una lista civica di centrosinistra e tre di centro, quindi il totale fa comunque 25, di cui 8 al centrosinistra, 10 al centrodestra, una civica di sinistra, 3 ai 5 Stelle, 3 civiche di centro. E il dato qua sembra dire che nei comuni capoluogo lo schema tradizionale della destra, senza imbarcare Alfano come tra l'altro qui a Milano, in realtà va meglio delle precedenti amministrative. Poi in questo si aggiungono alcuni risultati di comuni più piccoli in Toscana e in Emilia, su cui candidati in particolare della Lega vanno bene, e non a caso oggi Salvini si reca in uno di questi comuni proprio per dire si ricomincia di là con le nostre parole d'ordine. Ovviamente ciascuno può leggere questi dati come vuole, resta il fatto che nelle grandi città, al di là di Milano, a Torino vi ricordo Forza Italia aveva un suo candidato, Osvaldo Napoli, che ha preso una percentuale bassissima, cioè stiamo parlando del 4-5%, una cosa abbastanza imbarazzante, ed era diviso il centrodestra, perché poi c'era un notaio per conto della Lega, c'era Rosso, ex appartenente a Forza Italia con una propria lista e candidato sindaco a Torino, c'era l'ex presidente della regione Piemonte Ghigo, che mesi fa ha detto bisogna stare con Fassino, io voterò Fassino, quindi un centrodestra completamente spaccato, che ha rinunciato in partenza all'idea di essere l'alternativa al sistema PD che poi ha portato alla vittoria la Appendino. A Roma idem, a Fratelli d'Italia Berlusconi ha detto no, ha puntato su Bertolaso, poi alla fine è andato su Marchini, che venendo meno alla sua promessa di essere strano ai partiti è andato giù anche a propria volta. Risultato quindi nessuna chance per il centrodestra di andare al ballottaggio. Questo è successo nelle altre grandi città, per così dire. A Bologna, candidata leghista che non è riuscita a battere, anche se è andata bene, è arrivata al 46% nel ballottaggio rispetto a Merola uscente, che ha vinto più per inerzia che per merito proprio, secondo me, però questa è una mia opinione personale. Tutto questo consente una lettura molto contraddittoria in realtà del centrodestra. Quello che si vede nei sondaggi che ieri sono stati diramati prima degli exit poll e che sono stati fatti dallo stesso campione che usciva dai seggi dicendo ma se si votasse con l'Italicum lei per chi voterebbe, si capiva però dalle risposte, sondaggi elettorali che avete visto nella diretta sulla 7 guidata addirittura Mentana pochi secondi prima degli exit poll, la risposta era in quei sondaggi che al ballottaggio sarebbe andato il PD e i 5 Stelle e non il centrodestra. Però che cosa bisogna pensare di questo centrodestra? Allora abbiamo due ospiti, uno Armando Siri, che è responsabile economico di Noi con Salvini ed è l'ideatore della proposta di flat tax della Lega, su cui molte volte in questa trasmissione o sabato e Conti la Beva abbiamo già parlato. Sapete che io stesso sono fautore della flat tax, sia pure un'aliquota di convergenza superiore rispetto a quella proposta dalla Lega. Comunque Armando Siri, grazie di essere con noi oggi pomeriggio. Grazie a voi, buongiorno a tutti. E poi Sofia Ventura, che insegna scienze politiche all'Università di Bologna, grazie di essere con noi Sofia. Grazie a voi, buonasera. Comincio da Armando Siri. Lei che risposte dà alle due domande? Fuori dal ring o dentro il ring in vista dell'Italicum e rispetto al ruolo di antagonista che con le grandi vittorie nelle grandi città, ma devo dire in 19 ballottaggi su 20 conquista i 5 Stelle, ma a quel punto con quale delle due strategie per semplificare? Strategia Parisi o strategia Salvini? Ma guardi, l'antagonismo intanto nei confronti del governo Renzi, che da queste elezioni amministrative ne esce abbastanza con le ossa rotte, perché lo ha detto lei facendo i conti prima, loro hanno perso tantissime posizioni in comuni dove governavano, noi invece abbiamo più che raddoppiato le nostre posizioni. La vicenda a Milano è una vicenda particolare, noi qui abbiamo fatto il possibile in una situazione molto difficile con un candidato che è partito in ritardo e poi con effettivamente questa compattezza rispetto all'antagonismo che non c'è stata. Se vediamo al ballottaggio che appunto il pubblico dei 5 Stelle non è, tra virgolette, non ha fatto questa scelta, non è venuto in soccorso di un candidato antagonista comunque al PD, cosa diversa invece che abbiamo fatto noi, dove loro hanno potuto vincere. Quindi insomma è tutto da discutere. Sicuramente il centrodestra deve fare una grande riflessione, non so se sarà la scelta migliore, quella della radicalizzazione, non credo, ma credo che neanche Salvini l'abbia in mente. Salvini ha semplicemente ribadito che su certi temi fondamentali della Lega non sarà disposto a, diciamo, a venir meno a quello che è stata la sua coerenza fino ad oggi, ma non è venuto meno neanche in campagna elettorale, a dire il vero. Semplicemente è stato molto impegnato in giro per l'Italia, quindi ovviamente la sua presenza su Milano è stata meno di quanto non lo sia stata magari se lui avesse dedicato solo il suo tempo qui. No, effettivamente Salvini si è trattenuto, così l'ha detto subito anche stanotte, si è trattenuto perché, per esempio, su Milano, Parisi non ha mai nascosto su alcuni punti di fondo, moschee, immigrati, lo stesso referendum di ottobre, cui Salvini, Parisi ha detto io non sono per il no e così via, Parisi si è avvalorato in campagna elettorale con una larghissima autonomia e anzi questa è la carta che ha giocato per portare al voto un elettorato moderato che era un po', si può dire, scocciato oramai dopo 5 anni di esplosione di Berlusconi di vedere sempre le stesse facce perdenti, perché questo è il punto vero. E io invito tutti a riflettere sul fatto che nel voto del primo turno qui Forza Italia ha avuto unica parte d'Italia, unica parte d'Italia, Forza Italia ha avuto un exploit con la Gemini che ha portato Forza Italia su Milano al 21%, mentre la Lega è andata malino su Milano perché si è fermata all'11%, questo per essere chiari. Però detto tutto questo, Parisi ha aggiunto molto secondo me, poi non ce l'ha fatta, però il problema era di aver aggiunto dall'altra, però senza poter giocare la carta di uno a cui veramente gli avevano dato carta bianca rispetto ai partiti del centrodestra, che restano, ai miei occhi, assolutamente divisi e spaccati tra loro. Questo è il punto di fondo: tra chi appartiene al gruppo dei popolari europei e chi dice l'Europa della Merkel, chi è servo della Merkel e nemico dell'Italia, beh, c'è un gap che dal punto di vista politico non è che lo devo commentare io, si commenta da solo. Che pensa Sofia Ventura delle due questioni, dentro e fuori dal ring, ma con quale scelta? Premetto che da, diciamo, da un po' di tempo che ormai riflettere sul centrodestra mi sembra una cosa drammaticamente inutile. Ma lo dico perché effettivamente appunto sono anni che non si riesce un po' a recuperare il bandolo della matassa e quindi, diciamo, talvolta si ha proprio l'impressione che in qualche modo questo centrodestra debba arrivare a morte naturale per lasciare lo spazio a qualcosa d'altro. Ecco, quindi, diciamo, questa è la mia premessa che non è smentita da questo risultato elettorale. No, perché in realtà appunto noi cosa abbiamo visto? No? Si parlava appunto del caso di Milano, io sono assolutamente d'accordo sul fatto che Parisi abbia rappresentato un valore aggiunto ed è stato molto, molto abile nel rappresentarlo proprio perché ha mantenuto questa distanza dai partiti. E appunto l'operazione era quasi riuscita, forse se anche una piccola parte, il Movimento 5 Stelle, si fosse mosso verso Parisi al secondo turno, l'esito sarebbe stato diverso. Poi ci sono i rumors che dicono che al secondo turno la Lega non si sia data molto da fare, però probabilmente sono soltanto malignità. Comunque sia, lì appunto sembrava che si potesse sperimentare questa formula, che però già di per sé è una formula in qualche modo viziata, perché cioè, il dramma della destra italiana è che si dice appunto deve stare unita o deve andare divisa, ma anche se è unita mette insieme cose che insieme non stanno, non stanno altrove in Europa, perché che cosa può unire un liberale, moderato, popolare, conservatore eccetera a la Lega, specialmente nella versione, diciamo, di Salvini? Nulla, nulla, no? Anzi, possiamo immaginare che al di là appunto della situazione molto polarizzata di questo momento, ma un liberal conservatore forse alla fine può preferire, può avere come seconda preferenza il Partito Democratico piuttosto che non la Lega di Salvini. Aspetti un secondo, per far capire ai nostri ascoltatori, perché alcuni già sussultano su questo, per dire nulla ci riferiamo al fatto che in grandi paesi europei di tradizioni diverse, sistemi elettorali diversi, no, per esempio, cioè, i conservatori e gli UKIP di Farage sono due cose distinte e diverse. Poi i conservatori si spaccano anche loro su Brexit, però sono completamente distinte e diverse, sono concorrenti. In Francia l'UMP, Sarkozy, con tutto il male che se ne può pensare, rispetto al Front National de Le Pen, sono concorrenti diretti, nemici vantaggi assoluti, al punto tale poi quasi di ritirare i candidati se il socialista è più avanti rispetto a quello di Le Pen. In Germania, idem, CDU e CSU, anche diversi rispetto a UMP e ai conservatori britannici, rispetto a Alternative for Deutschland, nemici assoluti per così dire, anzi li dipingono come lo stravolgimento pericolosissimo della storia politica tedesca. Questo intende Sofia Ventura quando dice niente in comune, non è che se lo inventa perché ha un giudizio politico, se uno guarda l'Europa più o meno è così. Mi scusi se mi sono permesso. Questo niente in comune, diciamo, forse appunto sono stato un po' tranchant e ringrazio della precisazione, si vede molto chiaramente anche nella retorica. La retorica non è qualcosa, diciamo, di ininfluente, no. Nel senso che appunto una destra conservatrice, una destra chiamiamola populista, può anche affrontare problemi simili come quello dell'immigrazione, come quello della sicurezza, e eventualmente anche proporre ricette non troppo lontane tra di loro. Il punto che cos'è? È il modo in cui anche questi temi vengono proposti, cioè quello che contraddistingue le destre diciamo più estreme, e mi sentirei di dire anche la Lega di Salvini, è questo gioco retorico per cui si trova sempre un colpevole, no? È appunto la retorica antipolitica, populista, per cui si dice che si vuole affrontare il tema della sicurezza, però lo si pone come un tema dell'immigrato che è colui che viene a portarti via la sicurezza, il lavoro, no? E questa differenza di retorica in realtà proprio ha delle radici molto profonde nella concezione, credo, della società, del vivere civile, dello stare insieme, e quindi è una differenza in realtà di fondo. E quindi la destra italiana si trova in questa ambiguità che però appare difficilmente risolvibile, perché mentre da un lato poi si rafforza questa destra più populista, una destra popolare, liberale, conservatrice in Italia non c'è e non c'è mai stata. Forse dobbiamo tornare ai tempi della destra storica, quindi perché la versione, diciamo così, ereditata da Forza Italia era una componente moderata, cattolica, popolare, trasversale, interclassista, molto più statalista di quanto poi Berlusconi non dicesse prendendo i voti alle elezioni. Infatti poi si vedeva, per questo poi non seguivano le promesse i fatti. E di qui però, in questa interruzione, la mia domanda, a cui però vi chiedo la risposta dopo il minuto di pausa che abbiamo adesso per il traffico, per le informazioni di servizio, perché a me sembra, tra l'altro, che 5 Stelle, lo sappiamo, la gente li vota per la protesta, ma insomma non possiamo far finta di non sapere che cosa chiedono. Chiedono più Stato, beni comuni, servizi pubblici, nessuna privatizzazione, eccetera eccetera. Il PD io prevedo che facilmente andrà ancora più a sinistra per guadagnare i voti. Quello che manca è il vecchio pilastro di quello che Berlusconi diceva a parole e poi tradiva nei fatti, ma che non c'è più rappresentato nell'arco politico italiano, cioè di qualcuno che dica no, le illusioni di tenere buoni gli italiani che hanno perso un mucchio di reddito, verissimo, dicendo sarà lo Stato a darvelo, sono illusioni, noi abbiamo bisogno di uno Stato più leggero, meno tasse, però fatta con i tagli di spesa, non in deficit, non stampando moneta, senza inflazione. Questa roba sembra essere sparita, e questo però riguarda sia la componente, per così dire, Lega, che ha da una parte la flat tax, ma dall'altra però dice Stato, torniamo all'inflazione con la moneta sovrana e così via, ma riguarda anche i pezzi sparsi di quello che è la vecchia Forza Italia di Berlusconi. Allora, su questa questione economica, la risposta dei due ospiti, però tra un minuto. La versione di Oscar. Allora, molti ascoltatori negli sms ci dicono in realtà la vittoria di 5 Stelle nasce, si nutre del fatto che da una parte c'è la crisi del PD renziano, oltre al vecchio PD responsabile di cose come Roma, ma dall'altra c'è anche questo destra sparsa, combattiva, nemica, di cui si capisce che in realtà non ambisce a governare, ambisce a contenere le perdite nella rappresentanza, magari con leadership però di rappresentanze minoritarie, non per governare. Ecco che la gente a quel punto o resta a casa oppure vota i 5 Stelle a maggioranza quando va a votare, cosa che secondo me, io mi ritrovo molto in questo tipo di analisi, mi sembra equilibrata. Molti ascoltatori ce la propongono dicendo io ho votato 5 Stelle, non è che sia d'accordo su tutto, però la spallata si dà così. Altri dicono che bisognerebbe cercare in figure che fino a questo momento al centrodestra non si sono, diciamo per così dire, mai presentate come leader possibili, tipo alcuni, ci sono un po' di ascoltatori di Veneti che ci propongono il governatore del Veneto Luca Zaia. Molti dicono Parisi è solo, quindi è inutile che voi giornalisti parliate di un suo possibile ruolo al centrodestra nazionale. Questo vuol dire che sono d'accordo anche con voi. Sentiamo come la pensano alcuni ascoltatori che hanno telefonato. Cominciamo con Massimiliano dalla provincia di Vicenza. Prego Massimiliano. Ecco, pronto, buongiorno a tutti. Buongiorno. Niente, io sono dell'idea che se l'è giocata a Berlusconi questa cosa, tradendo praticamente l'appoggio alla Meloni a Roma. E questo atteggiamento ha praticamente scontentato tutto l'arco della Lega Nord e a Milano praticamente hanno tirato i conti, perché non è possibile essere stati così cocciuti e non capire che la Meloni poteva andare al ballottaggio e si poteva anche vincere. Lì no, tra l'altro Massimiliano, l'esito di Roma è duplicemente paradossale, perché oltre a no alla Meloni ha affossato anche Marchini, quindi è un risultato veramente incomprensibile, però capisco il suo punto di vista. Quindi lei non è così contrario all'idea che forse i leghisti a Milano abbiano tirato un po' i remi in barca, però questo non si può dire, a dire la verità. Già, il problema è che il loro risultato già al primo turno era al di sotto delle attese. Nicola dalla provincia di Caserta, che dice? Beh, Caserta, guardi, dove ha vinto il PD? Sì, no, io sono in provincia di Caserta, Galluccio. Sì. No, io penso che poi il centrodestra è un po' fuori dal ring, perché la parte compromessa è un po' fagocitata dal PD e la parte antagonista è andata con 5 Stelle. Quindi diciamo è completamente esclusa, è rimasta soltanto la parte estrema di Salvini con le sue tematiche di no euro sull'immigrazione. Però io posso dire, Nicola, cioè, pensiamo a Forza Italia in Campania. In Campania a 5 anni di distanza è ancora spaccata dalle fondamenta in chi ci è rimasto. Sto parlando di voti di potere a quel punto, più che di opinione, perché i voti di opinione, come si vede dal fatto che hanno votato un napoletano su tre, rimangono a casa. Ma è ancora spaccata tra i filo cosentiniani, gli anticosentiniani, la Pascale, gli amici della Pascale. Cioè, è proprio come dire non voglio giocare. Ecco, questa è la mia idea. La ricandidatura di Lettiera l'ho sempre vista in questa chiave qua, cioè per la serie, tanto la chance non le abbiamo. Absit Nuria, non è che ho niente, non voglio mancare di rispetto a Lettieri, però è così. Queste sono le logiche se uno torna a vecchi candidati perdenti. Allora, mi interessa Siri e Ventura. Siri, non manca la rappresentanza del tutto nella destra a temi rigorosi su meno Stato con meno spesa e così via. Mi sbaglio secondo lei? No, ma guarda, intanto io vorrei fare una precisazione rispetto all'intervento precedente della professoressa. Certo. Io la sovrapposizione della Lega ai movimenti tedeschi, a Farage, alla Le Pen non la farei. La Lega in Italia è forza di governo. Governa la Lombardia, governa il Veneto, governa la Liguria, ha governato spesso in altri governi, come il governo Berlusconi. Certo. È una forza matura e di governo, non c'entra niente con la Le Pen. La Le Pen non ha mai avuto responsabilità di governo in Francia, come non l'ha mai avuta Farage, come non l'hanno mai avuta, certo, i tedeschi. Vero. Quindi siamo di fronte proprio a una questione completamente diversa. Poi, naturalmente, nel mondo Lega ci sono tutta una serie di temi che possono essere rappresentati anche con delle modalità. Però lei respinge l'assimilazione a quelle forze, ok. Sì, no, dico semplicemente che loro stanno in Francia, stanno in Inghilterra, ognuno stanno in Germania, noi storia. Siamo in Italia, certo. Noi abbiamo una realtà diversa dalla loro. Con una Lega che è stata parte pilastro del centrodestra quando ha governato, una volta sì, una volta no, per i vent'anni della Seconda Repubblica. No, ma questo è un fatto oggettivo. Ma tornando ai temi dell'economia? Sì, quando vogliamo trovare la sintesi, la troviamo e governiamo bene appunto dove stiamo governando. Sul tema dell'economia, lo ha detto lei, noi abbiamo lanciato una piattaforma di riforma radicale del sistema tributario e fiscale, depositando una legge in Parlamento che ho scritto appunto io personalmente, di riforma del testo unico, delle imposte sul reddito, con l'introduzione della flat tax. Abbiamo detto quali sono le nostre proposte, sono condivise all'interno del centrodestra. Si discuterà poi sulla questione aliquota non aliquota, ma qui lo faremo poi, perché bisogna discuterne poi con chi conosce effettivamente la materia fiscale, perché è molto complessa e non può essere naturalmente riassunta così in modo... Però non mi può negare che nel programma economico della Lega è diventato di uno statalismo su molti aspetti che prima non esisteva. Cioè io mi limito a dire che molti non si ritrovano, ecco, con tutto che poi dicono la flat tax magari, Però se poi vedo che per l'agricoltura ci vuole più Stato e così via. Però adesso purtroppo il tempo è finito. Io mi scuso anche con la professoressa Fiaventura perché ha parlato una sola volta. Comunque torneremo a parlarne perché credo che un cantiere al centro-destra in qualche maniera si aprirà. Non fosse altro che per le polemiche che questo aprirà. Comunque domani mattina alle 8:15 io e Alessandro Milan ci ritroviamo con tutti voi in ascolto. Attenti a noi due.